Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City. Arte, cinema, videogiochi, come cambieranno con l'evoluzione dell'intelligenza artificiale? Ce lo chiediamo questa sera a Smart City, nuova tappa dello speciale con cui stiamo cercando di immaginare il futuro per come sarà modificato, trasformato appunto dall'intelligenza artificiale. Per parlarne diamo il benvenuto al professor Marco Gori dell'Università di Siena, dove dirige il Siena Artificial Intelligence Lab. Buonasera, buonasera Gori. Buonasera. Allora, intanto proviamo a riflettere sulle arti, come per esempio la pittura, la scultura, quindi le arti figurative, ma mettiamoci pure la musica. Qui che cosa possiamo aspettarci che accada? Vi faccio un esempio. Mi viene da pensare a quando Vincent Van Gogh riuscì a dipingere La notte con le stelle, questo bel quadro che immaginava cosa vedeva lui dalla finestra. Ecco, adesso attraverso l'apprendimento automatico è possibile per gli algoritmi frugare nelle opere di Vincent Van Gogh e sulla base dello stile che scoprono una volta che visitano le opere e le guardano, poi guardando dalla finestra di una città completamente diversa possono riprodurre qualcosa tipo La notte stellata di Vincent Van Gogh, magari in un luogo completamente diverso. E quindi oramai le macchine sono in grado di uscire con espressioni artistiche che in qualche modo emulano quello che i grandi artisti hanno fatto nel passato. Quindi oggi un artista che volesse avvalersi dell'intelligenza artificiale dovrebbe essere bravo a scegliere l'inquadratura giusta, per così dire, lasciando alla macchina l'implementazione. È un po' come dire che separiamo la scelta dei contenuti dall'artigianalità che è necessaria, che era necessaria per poi dargli forma, no? Alla tecnica della pittura, per esempio. Beh sì, c'è tuttavia qualcosa di ancora più interessante, perché ormai questo metalivello, quello che porta gli scienziati a suggerire alle macchine i meccanismi creativi, questo metalivello sta diventando probabilmente parte del meccanismo creativo. Altri artisti stanno utilizzando questa leva straordinaria, questa leva cognitiva che permette di esplorare uno spazio artistico magari nuovo, più ricco ed elaborato. Non si tratta semplicemente di un meccanismo di brutale riproduzione. In effetti scatta un meccanismo intelligente che non si è mai visto, perché c'è questo spazio creativo che si esprime attraverso la straordinaria potenza dei computer. Senta, proviamo brevemente a ragionare sul cinema. Sappiamo gli effetti speciali, sappiamo che ormai si può far vestire a un attore anziano i panni di se stesso quando aveva 40 anni di meno, come è successo in un film recentemente. Cos'altro potrebbe accadere? Beh, che pensando al test di Turing, il quale diceva per vedere e testare l'intelligenza delle macchine serve capire se effettivamente si indovina se un qualche prodotto, come un prodotto artistico, come il cinema, viene in realtà o gli attori sono uomini o macchine, forse verrà il momento in cui sarà davvero difficile anche indovinare se dietro c'è un uomo o una macchina. Forse sta arrivando davvero il momento in cui questi schemi ci spingono a cercare davvero gli aspetti più straordinari di ciò che per gli umani è distintivo, e forse paradossalmente ciò che è più ricco, più bello e più interessante nell'uomo forse non è proprio l'intelligenza. Io faccio un'ipotesi un po' più terra a terra, mi viene da pensare che con questa possibilità di rivestire un attore con un qualunque corpo, diciamo, proiettato dal computer, forse gli attori di Hollywood non saranno più per forza bellissimi, no? Perché no, potremo, come dire, mettere il corpo che vogliamo intorno a qualunque attore, a questo punto li sceglieremo veramente solo per la loro bravura. Senta, ragioniamo sui videogiochi. Ovviamente c'è il tema dell'iperrealismo, che però è una strada già aperta e in continuità con quanto già avviene da anni. Che cosa potrebbe accadere di nuovo? Per esempio videogiochi con una storia non più definita, dei mondi artificiali dove può succedere tutto quello che quel mondo può contenere? Beh sì, perché oramai la raffinatezza e la capacità delle macchine di apprendere e di questi agenti artificiali di comportarsi è tale che chi li progetta e chi li concepisce ne definisce un perimetro all'inizio, ma i meccanismi, i complessi meccanismi di interazione conducono al loro apprendimento, alla loro modifica e alla creazione di schemi e di processi che non sono affatto preesistenti o già codificati, no? Assolutamente no. Questi contesti in realtà sono poi particolarmente utili anche per lo sviluppo proprio di capacità cognitive come quella della visione e del linguaggio, proprio come fanno i bambini. Si iniziano oramai a concepire ambienti virtuali esattamente come i videogiochi, che sono delle palestre per le macchine che apprendono. Questi sistemi software vivono in questo mondo artificiale facendo domande esattamente come fanno i bimbi quando vedono per la prima volta una palla o quando vedono l'orsetto. Si incuriosiscono di queste regolarità e chiedono alle persone di che cosa si tratta e gradualmente imparano il linguaggio, pronti da questa palestra a saltare poi nel mondo reale. Quindi questi ambienti che oggi chiamiamo videogiochi possono diventare in futuro i luoghi in cui addestriamo nuove intelligenze artificiali. Il bambino non impara il nome di palla perché lo vede in un filmato, lo impara perché noi, mentre pronunciamo la parola palla, la stiamo indicando. Lei parla di un meccanismo di questo genere, fondamentalmente. Assolutamente sì, qualcosa che è completamente diverso da quello che accade adesso. Grazie, professor Marco Gori. Grazie a voi. Bene, cari ascoltatori, ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a lunedì. Buon fine settimana.